Dal 5 al 7 maggio negli spazi di Dumbo si terrà il festival Viva Mexico, Viva Puebla. E io sono qui per parlarne con il curatore Carlos Labandera. Buongiorno Carlos e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Rachele, buongiorno a tutti quanti e grazie per ascoltare un pochino sul festival. Esatto, parliamo insomma di questo festival che ci sarà questo weekend negli spazi del Dumbo. Io partirei un po' dal titolo. Che cosa rappresenta il nome di questo festival? Perché Viva Mexico, fino a lì, ok, ma Viva Puebla che cosa sta a significare? Esatto, questa è la parte interessante. Allora, c'è da dire che sicuramente, io essendo messicano, ecco perché facciamo questi eventi dedicati appunto alle tradizioni messicane, si conosce molto il Viva la Vida, no? Il Viva Mexico, il Viva la Festa, diciamo, no? E l'idea di questi festival eventi che facciamo con il nostro gruppo Sona Lebrijes dal 2015 più o meno, è quella di dare spazio alle vere tradizioni, alla cultura vera messicana che poche volte viene riconosciuta, magari perché viene tutto quanto messo sotto il cappello dell'idea del mariachi, no? Come il messicano. E allora Puebla è di fatto una città. Puebla è piena, è una città e addirittura anche una regione, come lo è anche, diciamo, Bologna. Praticamente è un luogo dove si racchiudono diverse tradizioni di culture e gastronomia di diverso genere. È una specie di calderone, come un po' anche lo è Oaxaca per chi è stato in Messico, anche Puebla è piena di tradizioni diverse che rappresentano molto bene il Messico, un mosaico, ecco, di culture e tradizioni. E perché festeggiamo questa città? In realtà non è solo la città, è la festività del 5 di maggio, scusate l'italiano. 5 di maggio è diciamo, la festa di Puebla, riconosciuta per la battaglia di Puebla, che è stata nel 1862 una battaglia di rivoluzione verso le influenze straniere, in particolare l'assedio francese che voleva appropriarsi di tutto il Messico. Ma però noi messicani abbiamo vinto quella battaglia a Puebla il 5 di maggio appunto del 1862. E poi è diventata una data importante a livello internazionale perché è iniziata a festeggiarci non solamente in Messico, come è stato fatto sempre, ma anche in America molto, perché veniva anche in qualche maniera riconosciuta dagli Stati Uniti, perché il fatto che noi siamo riusciti ad essere vittoriosi davanti all'esercito più importante dell'epoca, l'esercito napoleonico, allora questo ha aiutato anche a che comunque la guerra civile in America fosse indirizzata verso quello che è stato, no? Insomma, a livello internazionale è diventata anche una cosa importante. Ecco. E ora appunto arriva a Bologna per questo festival, per celebrare un po' l'identità messicana. Innanzitutto, Carlos, ti volevo chiedere come si può partecipare, bisogna prenotarsi, iscrivervi, è ingresso libero? Sì, l'idea di questi festival appunto è far conoscere veramente le tradizioni e anche appunto permettere a tutti quanti di partecipare, per cui l'ingresso è gratuito, ci sono diverse attività come concerti, come danze, gastronomia, ovviamente lì il piatto messicano veramente fatto da cuochi messicani, proprio doc, è fatto, c'ha un suo costo ovviamente, però tutte le altre attività sono libere. E in questo bisogna anche comunque riconoscere al Dumbo che in qualche maniera da quando collaboriamo con loro, col festival Viva la Vida che facciamo ogni novembre, no? Dia de Muertos, loro ci hanno ospitato da 2 anni e questo ci ha permesso appunto di dare spazio sempre di più a più attività del genere. Però sì, è ingresso libero, dunque vi invito a tutti quanti a partecipare, sarà molto bello anche stavolta perché comunque portiamo danze nuove, musica nuova, c'è un cantante messicano da Puebla che è venuto, c'è il governo del Messico che appunto si è permesso di mandarci 2 expo per conoscere appunto la città e anche ci sono degli assaggi, degustazioni per esempio di mezcal e di tequila portati proprio dal Messico e sono cose direi veramente nuove per quello che riguarda l'Italia, secondo me. Bene, quindi un programma ricchissimo tra musica, danza, prodotti tipici, appunto gastronomia, come ci stavi raccontando tu, anche tanti laboratori anche per i più piccoli, per i bambini e per le bambine. Ti va di dirci, Carlos, i tuoi due eventi preferiti magari di tutto questo festival, anche se so che è un po' difficile sceglierne solo magari sì, qualcuno? Sì, sicuramente sì, è difficile sceglierne perché veramente stavolta ce n'è assai di cose e di cose diverse, però direi che la gastronomia non può perdersi, perché viene veramente dal Messico cibo El Mole, per esempio Casa Coyote, che Manuel del Toro, messicano, che abita a Bologna, lui è un gran cuoco e praticamente con la sua ditta Casa Coyote praticamente mette in moto questo progetto di fare tradizioni gastronomiche vere, e il mole lo portano da Puebla, dunque gli ingredienti verranno portati proprio da Puebla. Dunque io direi che assaggiare il mole, che forse non tutti conoscono qua, ma è un piatto tradizionale 100%, è messicano 100%, deve essere una cosa molto interessante. In più anche forse il fatto di venirci a sentire al nostro gruppo, no? A Zona Lebrijes, Zona Lebrijes, che si scrive in italiano, credo che sia importante, perché comunque portiamo musiche che forse non si conoscono molto qua, però sono molto tradizionali e anche nuove alcune, dunque portiamo un repertorio sia tradizionale che anche nuovo con la cumbia, un nuovo progetto che stiamo facendo, per cui abbiniamo anche la cumbia e anche il laboratorio per danzare con musica dal vivo. Per cui vi invito a guardare un pochino il programma su Facebook, dove trovate tutta l'informazione, e sì, ci sono alcuni laboratori dove si può, anzi ci deve prenotare, ovviamente per le postazioni, però trovate tutto quanto comunque su Facebook, la pagina Viva la Vida, Festival di Cultura Messicana. Perfetto, grazie mille Carlos per averci raccontato questo festival, ricordo ancora una volta dal 5 al 7 maggio negli spazi di Dumbo, grazie ancora Carlos. Grazie a tutti quanti che ci state sentendo, grazie a te anche Rachele, a Radio Fujiko, ci vediamo venerdì, sabato e domenica al Viva México, Viva Puebla!